9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 1 dicembre. E in questo martedì 1 dicembre, come vi ho preannunciato, ci occuperemo di Alitalia. E ci occuperemo di Alitalia perché ciò che mi ha indotto a fare questo approfondimento è a tentare di capire dove stiamo andando nella compagnia di cui ci siamo spessissimo occupati ai tempi della privatizzazione, ricordate, lunghissime polemiche, eccetera. Oggi non voglio tanto occuparmi delle questioni del passato o delle polemiche su chi la controlla, ma invece fare un'analisi per consentire a tutti voi in ascolto e a tutti noi interessati, di capire che cosa sta succedendo all'interno della gestione della compagnia, quali sono i risultati che si portano a casa. E partiremo da un punto che è quello che mi ha colpito di più, che mi ha posto questo interrogativo, esattamente come tento di approfondirlo a voi che siete in ascolto, cioè sui risultati del terzo trimestre del 2009, perché in questo terzo trimestre l'Alitalia ha segnato un utile, e cioè su 838 milioni di ricavi ha segnato un utile di 15 milioni nel terzo trimestre. E allora la domanda che mi ero posto io per tentare di capire innanzitutto meglio di che cosa fosse figlio questo piacevolissimo ritorno all'utile era quello di scoprire quali fattori erano stati posti in essere dalla gestione, dal management della compagnia per realizzare questo risultato, per capire meglio se siamo in presenza di un cambio di pagina che ci consente di essere più ottimisti sui risultati realizzati da Alitalia e quindi su una maggiore efficienza di servizio e su tutto quello che questo può comportare per l'intera economia nazionale. Ed è esattamente questo il punto che approfondiremo oggi insieme ai nostri ospiti. Fatemi dire che naturalmente lo dobbiamo fare all'interno di coordinate complessive del trasporto aereo in questo anno difficile, quindi qualche dato iniziale su come sta andando il trasporto aereo in Europa e nel mondo, perché naturalmente il traffico aereo è stato pesantissimamente colpito dalla crisi del commercio mondiale da una parte e dalla crisi del traffico turistico. Ci si sposta di meno, si spostano meno merci oltre che persone. In effetti, se andiamo ad allargare un secondo l'occhio al contesto dei risultati delle maggiori compagnie nei primi 9 mesi del 2009, vediamo che il 2009 resta negativo sul 2008 per tutti i maggiori vettori tradizionali, perché vedendo i risultati dei primi 3 trimestri sommati siamo a un meno 4% per British Airways e Lufthansa. British Airways è appena fusa definitivamente con Iberia, ci occuperemo anche di questo, il consolidamento. Quindi dicevo, nei primi 9 mesi meno 4% per British e Lufthansa, meno 6% per Air France KLM, meno 11% per Iberia, meno 17% per SS, la compagnia scandinava di cui sono proprietari i tre governi scandinavi, e quindi in questo panorama di segni meno l'eccezione europea è la Turkish Airlines, che ha un più 11% nei primi 3 trimestri dell'anno. Turkish Airlines è da 3 anni che è un po' la perla col segno sempre più è in testa, sia per espansione del traffico che per identità dei vettori tradizionali europei, può abbinare bassi costi a flussi turistici crescenti e flussi di immigrati crescenti dai paesi in cui si sono spostati nel centro Europa i turchi alcuni decenni fa, e oggi hanno un livello di reddito crescente, quindi per questo è un'eccezione. Il dato più significativo in Europa, perché bisogna ricordare che analizzando il traffico aereo, il trasporto aereo, le tre macro aree del mondo restano separate, cioè siccome il consolidamento avviene europei con europei, americani con americani, asiatici con asiatici, bisogna distinguere tra le tre macro aree quando si analizzano i dati. E il dato più significativo in Europa però è sicuramente il fatto che rispetto a quelli che ho richiamato qua, i vettori tradizionali, è ad andare invece molto bene, benissimo, sono le low cost, perché Ryanair per esempio ha chiuso il terzo trimestre con profitti per 252 milioni di euro, e quindi se sommate i primi 3 trimestri dall'inizio dell'anno di Ryanair sono utili per 400 milioni. EasyJet a settembre ha chiuso l'esercizio 2008-2009 con profitti per 71 milioni. Air Berlin nel terzo trimestre ha fatto 95 milioni di utile e quindi ha più che superato le perdite che invece aveva realizzato nei primi due trimestri. E quindi vedete che c'è, dal punto di vista degli andamenti, una significativa divergenza tra le low cost che vanno bene o benissimo benissimo, come nel caso di Ryanair, rispetto ai vettori tradizionali che continuano a stentare. Complessivamente IATA continua ad avere previsioni, malgrado questo miglioramento che c'è nel terzo trimestre un po' per tutti, ma sempre col segno meno da inizio anno, continua a vedere un 2009 abbastanza disastroso complessivamente per le compagnie aeree mondiali. Siamo tra una stima di perdita tra 9 e 10, quella iniziale era 11 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di una perdita molto significativa. Per questo, fine della mia introduzione, c'è chi ritiene che inevitabilmente il consolidamento, cioè il raggruppamento, la fusione, l'aggregazione dei vettori tradizionali dovrà continuare ad andare avanti in ragione di queste perdite che richiedono attivi patrimoniali consolidati e che si può fare spessissimo solo con la fusione rispetto a conti economici estenuati per chi ce li ha meno solidi gli attivi patrimoniali. Di qui il fatto che Iberia e British Airways, che avevano già una presenza incrociata nel capitale, hanno recentissimamente deciso di procedere all'integrazione piena. E questo che cosa significa? Significa che nelle tre grandi alleanze del mondo, perché British Airways stanno nel gruppo One World, sappiamo che all'Italia insieme a France KLM sta invece in SkyTeam, mentre invece Lufthansa, il terzo altro grande vettore tradizionale europeo, sta nella terza grande alleanza mondiale. In ciascuna di queste alleanze è le maggiori compagnie europee hanno finito per fare un domino assorbendo le minori in ciascuna delle alleanze, tant'è vero che Lufthansa ha proceduto nel 2007 a prima all'acquisizione di Swiss, che era nata dal fallimento di Swissair fallita, poi nel 2008 ha acquisito Brussels Airlines, che era l'erede della fallita Sabena. A settembre del 2009 ha proceduto la piena acquisizione di Austrian Airlines dal governo di Vienna, e c'è chi pensa che la scandinava SAS, appunto quella che vi ho detto, di cui sono proprietari i tre governi scandinavi, e che perderà tre anni presto o tardi, che nella stessa alleanza di Lufthansa, Star Alliance, sarà soggetta inevitabilmente presto o tardi anch'essa a cadere nella piena integrazione con i tedeschi. Di qui la domanda se alla fine non debba essere questo anche il destino per Alitalia all'interno di SkyTeam rispetto alla compagnia aerea che è il maggior vettore di SkyTeam, cioè Air France. Fine dell'introduzione, perché ora vi presento gli ospiti, d'ora in poi farò brevissime domande e vi invito a chiamare 800 24 00 24 per dire anche voi la vostra su come vedete Alitalia, come vedete questo miglioramento di Alitalia. Gli nostri ospiti, abbiamo collegato con noi, e io di questo lo ringrazio, Marco Sansavini, che è il direttore vendite e distribuzione di Alitalia. Buongiorno dottor Sansavini. Buongiorno. Poi abbiamo Nicola Porro, del vice direttore del giornale. Buongiorno, carissimo. Buongiorno. Nicola. Buongiorno. E Roberto Corbella, che è il presidente della STOI, Associazione Tour Operatori Italiani, vicepresidente di Federturismo. Buongiorno Corbella. Buongiorno a voi. Allora, Sansavini, ci aiuta innanzitutto a capire meglio questo dato del segno positivo. A me la cosa che aveva colpito di più analizzando i dati era una notevole discesa del costo dei costi fissi realizzati dalla compagnia. Tant'è vero che secondo me era proprio per la compressione dei costi che è stato possibile abbassare il load factor di equilibrio al 72-73%, e siccome il coefficiente di riempimento in questo trimestre è salito oltre quella cifra, insomma si è tornato all'utile. Però com'è possibile agire in maniera tale che il segno resti più? Sì, allora, in effetti è un risultato estremamente significativo per noi, ed è significativo sia dal punto di vista puramente economico-finanziario, come lei sottolineava, cioè come riflesso di come i costi ed i ricavi si sono sviluppati, ma direi forse ancora di più di un fatto che è più legato al comportamento dei consumatori. Cioè, per raggiungere questi 15 milioni di risultato operativo, la condizione essenziale, fondamentale, è stata che in primo luogo gli italiani e in generale i fruitori dei servizi di Alitalia ritrovassero la fiducia nella compagnia aerea. Se vede, diciamo, dietro a questi 15 milioni, il primo dato, quello fondamentale, è che circa noi abbiamo trasportato 6 milioni e 300 mila passeggeri in questo trimestre, cioè più di 2 milioni al mese, che quindi ci ha consentito di raggiungere un tasso di riempimento che, come lei sa, è un po' l'indicatore chiave che utilizziamo per misurare la performance, del 74%. Ed è evidente che questo è avvenuto sulla spinta di una serie di investimenti che poi nel corso della trasmissione magari prenderemo qualche minuto ad analizzare, che piano piano hanno dato la possibilità ai clienti di testare la nuova Alitalia, di rendersi conto di quali erano le differenze rispetto al passato e quindi di ritornare ad utilizzarla con continuità. Questo, diciamo, spiega un po' l'aspetto del volume dei ricavi, che devo dire è significativo per noi anche, come lei spiegava, in relazione a quello che è successo alla domanda. Cioè, in un anno normale sostanzialmente ci sarebbe potuto attendere un recupero di Alitalia al recupero di una operatività e di una capacità di fornitura del servizio stabile. Quello che invece è successo in più quest'anno è il fatto che, come lei diceva, la domanda in realtà è diminuita in maniera molto significativa, cioè noi abbiamo avuto nel mercato italiano una diminuzione della domanda complessiva in valore del 30%. Quindi per riconquistare, diciamo, questi passeggeri, questi volumi, è stato necessario riconquistare in maniera molto significativa quote di mercato, perché in realtà la torta si stava restringendo e quindi per fare in modo che la nostra fetta diventasse più grande l'unico modo era riconquistarla da altri. E quindi noi, che eravamo partiti con una quota di mercato al 43% a gennaio, siamo ora a settembre ad una quota di mercato del 53%, che è superiore alla somma della quota di mercato di Alitalia Air One nel mese corrispondente dello scorso anno. Ma perché avete abbassato le tariffe? Questo è stato allora anche un'altra componente? Questa certamente è una componente che è avvenuta, cioè se lei vede il nostro, diciamo, i nostri ricavi sono in effetti il risultato di due fattori, il numero di passeggeri ed il ricavo medio. Ed è vero che il ricavo medio è diminuito rispetto allo scorso anno. Quello però che è importante vedere è che questa non è un'iniziativa solo di Alitalia o pura di Alitalia. Quello che è avvenuto è che, a seguito di quello che dicevo, cioè della diminuzione della domanda, tutte le compagnie aeree hanno ridotto i loro ricavi unitari. Il BSP, che è questo indicatore di mercato che ci dice il valore del mercato, che dicevo è diminuito del 30%, è diminuito così tanto non perché sono diminuiti i passeggeri del 30%, ma perché del 20%, 20-25% è diminuito il valore medio del biglietto. Cioè si può dire che più o meno oramai siamo a una diminuzione di un 10% del volume dei trasportati e del 20% del valore, più o meno, no? Tra l'altro questo non è un fenomeno che avviene soltanto in Italia, è un fenomeno che avviene in tutta Europa e che è ancora più forte se lei, diciamo, separa i viaggiatori che viaggiano per motivi di lavoro e i viaggiatori che viaggiano per motivi di piacere. Diciamo così che il traffico per motivi di piacere è rimasto ai livelli quasi del 2008, con prezzi unitari leggermente inferiori, però non è stato particolarmente colpito dalla crisi. Quello che invece ha colpito molto la crisi sono state principalmente le spese per trasporto aereo da parte delle imprese, che quindi hanno visto o una riduzione del loro numero di passeggeri oppure una modifica del loro comportamento di acquisto, per cui si sono indirizzato verso magari tariffe più restrittive, quindi a prezzi unitari inferiori. Il risultato quindi è che soprattutto le compagnie aeree che avevano una forte, diciamo, penetrazione nel segmento business che hanno sofferto di più, il che anche spiega perché in questo anno in particolare le compagnie low cost hanno avuto uno sviluppo che sembra quasi paradossale in un anno di diminuzione della domanda, perché in realtà la domanda in quel segmento è rimasta stabile o addirittura si è leggermente sviluppata, mentre certo, nell'altro segmento che ora la interrompo un secondo, torniamo da lei più volte nel corso della trasmissione, ma per alternare anche un po' le voci. Dunque, lei un secondo per farci capire che impressione si è fatta su questi dati. A me, richiamo un altro dato, siamo con un'Alitalia con un segno più, sia pure 15 milioni, noi eravamo abituati a scrivere da un bel po' Air France la piglia, Air France per forza, non c'è altro. Air France è riduce da due trimestri terrificanti, perché nello stesso terzo trimestre fa meno 147 milioni e sommati al trimestre precedente, cioè il primo dell'esercizio 2009-2010, perché a seconda dei diversi paesi europei iniziano diversamente gli anni, i mesi, il trimestre di contabilità per il bilancio civile, ma comunque se si sommano i 147 milioni che Air France ha perso nel terzo trimestre a quelli del precedente trimestre, siamo a oltre 600 milioni di perdita. Insomma, sono sberle che forse dovrebbero farci porre qualche interrogativo per i nostri lettori, visto quello che si era scritto fino a poco prima, o resta tutto come prima secondo lei? Guardi, lei ha indicato bene qual è il futuro. Non esisteranno più compagnie aeree non integrate in un grande network internazionale, quindi poi sarà abbastanza ininfluente capire se loro avranno il 40 o il 30%. Quindi ormai noi siamo in una grande alleanza internazionale, in quella grande alleanza internazionale noi saremo distendenti a confluire in maniera molto più sostanziale. Nel futuro ci saranno tre grandi compagnie internazionali che sono quelle basate sulle tre grandi alleanze di oggi. Questo è un dato che voglio dire, fuori dai microfoni le dicono tutti quanti gli amministratori delle grandi aziende di trasporto aereo. Quindi questo è direi un po' l'italianità, la difesa della nostra bandiera, insomma sono cose che possono anche funzionare per livello giornalistico e marketing, però la sostanza è che ci sono tre grandi vettori nel mondo nel futuro. Poi certo ci saranno le nicchie, ci saranno le low cost che neanche fanno parte della IATA, per dare un senso di quello che è un'industria completamente diversa. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto è l'Italia di oggi non è più neanche lontanamente paragonabile nei numeri Air France. Parliamo di fatturati che sono 4 volte superiori, 3 volte superiori a quelle di Air France Destinazioni, che sono 10 volte superiori. Quindi sia le perdite sia eventualmente i rimbalzi saranno completamente diversi. Terzo elemento sostanziale, che è la domanda che lei faceva prima, io più che sui ricavi, perché il tema dei ricavi e del miglioramento del servizio che forse in una certa maniera c'è stata nelle ultime settimane, se non mesi, da parte dell'Italia, il vero grandissimo tema dell'Italia oggi, che è merito del piano industriale e anche di quelle condizioni eccezionali che l'hanno portato, il piano Fenice, è che i costi dell'Italia sono neanche minimamente paragonabili a quelli di qualsiasi altro vettore al mondo. All'Italia è diventata l'azienda il cui costo per passeggero e chilometro trasportato, cioè, diciamo, semplifichiamo, il costo per il passeggero trasportato è il più basso del mondo. Poi tocca riempirli gli aerei, perché il secondo fattore ovviamente è che il costo per passeggero trasportato può essere basso, ma se non si riempiono gli aerei ovviamente i costi fissi diventano insopportabilmente forti nel conto economico. Però il punto vero è questo, e cioè che quando, non voglio ritornare al passato perché non è il tema di questa trasmissione, però quando i privati sono entrati in questa azienda hanno preteso, e io dico giustamente, di avere come le posso dire, sostanzialmente una new company, una società nuova con costi nuovi, non gente nuova, perché 14 dei 20.000 erano dipendenti della vecchia Alitalia, molte cose sono della vecchia Alitalia, ma hanno preteso di poter giocarsi la partita da zero, da nuovo. Quindi hanno ragione gli uomini dell'Italia, stanno facendo degli sforzi incredibili, hanno portato hanno aumentato il peso hanno aumentato la quota di mercato in Italia, anche se su questo ci sono dei dati che insomma si dovrebbero vedere un pochino meglio. Però il tema fondamentale è che sono riusciti a tenere bassi i costi. Il petrolio non è saltato, a differenza della trattativa con cui si stava chiudendo con Air France, con il petrolio che arrivò fino a $140, quindi questo è il vero lato. Questo lato, se posso fare un passo avanti, è un'opportunità che non deve essere persa dal management dell'Italia e non mi sembra che si stia perdendo, e cioè mercato difficile ma costi molto bassi per l'Alitalia, bisogna recuperare quella clientela che si è completamente persa, e che la clientela ricca, business, non la Roma-Milano in cui c'è una riserva, diciamo, di legge, per cui comunque l'Italia sta un po' sfruttando quel mercato rispetto ai concorrenti. Bisogna recuperare clientela business, che è quella che porta soldi, e immaginare una serie di tratte internazionali, anche se non direttamente gestite, che diano un senso un pochino più, come posso dire, di pesantezza del gruppo Alitalia. L'ultima battuta che faccio, se no parlo troppo, è che se non si fa questo, cioè se non si rende l'Italia col tempo e anche con criteri economici e non politici un po' più presente dal punto di vista internazionale, è un po' la cena dell'altra sera tra Berlusconi e 40 imprenditori in cui si diceva che all'Italia doveva essere, come posso dire, l'ambasciatore del Made in Italy. Fa un po' ridere, perché diventa ambasciatore del Made in Italy in Italia, su cui se ne ha bisogno, ma insomma non mi sembra che sia quello il luogo in cui si deve fare gli ambasciatori del Made in Italy, ma in giro per il mondo. Ma è soltanto una battuta, perché Oscar, in realtà il vero tema è quello che dice lei. Noi ci troviamo con Air France che perde 600 milioni di euro, ci troviamo con British che perde, ci troviamo con Lufthansa che perde, che era l'altra possibile candidata all'acquisto di Alitalia, e con l'Italia che ha una linea nera. Questo è un dato straordinario. Allora, approfondiamo ancora con Sansavini questo dato straordinario. Prima questione, ci faccia capire bene come diavolo è possibile, perché avete migliorato il costo anche da un trimestre all'altro rispetto alla linea di partenza. Porro perfettamente ragione, ed è questa una delle tante critiche, io stesso tante volte l'ho fatta, la nuova compagnia ha preteso di fare punto a capo rispetto alle perdite patrimoniali di gestione di conto economico dell'Italia pubblica, perché era un pessimo proprietario. Detto questo, questo spiegherebbe che voi avete i costi fissi bassi fin dall'inizio, ma se uno li migliora, e li avete migliorati perché sono 6,5 centesimi, io ho visto le cifre nel conto trimestrale, sono 6,5 centesimi per posto chilometro offerto nel terzo trimestre, ma è meno 0,2 centesimi rispetto al trimestre precedente. Quindi la prima domanda che le faccio dopo l'appuntamento con la pubblicità che adesso comincia è: come avete migliorato da un trimestre all'altro questa componente di costo? In tre mesi effettivamente significativo. La seconda riguarda proprio invece l'osservazione che faceva Porro sulla Roma-Milano. Sappiamo che la Roma-Milano è la rotta più trafficata d'Italia, sono 10.000 passeggeri almeno al giorno, tutti noi vi abbiamo sempre rotto le scatole, secondo me giustamente, cioè, siete monopolisti eccetera. Poi sono usciti i dati da Linate e Malpensa, e le altre compagnie hanno guadagnato passeggeri rispetto alle vostre, quindi questi dati sono anche in presenza di un andamento che sembra più concorrenziale, non meno sia su Linate, insomma Malpensa era ovvio visto il ridimensionamento, ma anche su Linate. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di questo ritorno segno più nel terzo trimestre dei conti di Alitalia, tentando di capire di che cosa è figlio questi bassi costi, e avevamo interrotto proprio con una domanda che faceva Sansavino, perché d'accordo che avete ridotto molto il perimetro dei dipendenti, quindi avete abbattuto i costi fissi rispetto alla inefficiente gestione pubblica precedente, però quando il costo scende addirittura di trimestre in trimestre, e il terzo trimestre non è che il petrolio sia sceso improvvisamente di botto eccetera, su che cosa la compagnia opera per riuscire a ottenere questo? Poi la seconda domanda era: moltissime critiche, ma anche lo vedo dai messaggi, dalle telefonate e così via, che sono perché una delle condizioni per l'acquisto fu quello di dire sulla tratta più affollata d'Europa, la Milano-Roma, ricordiamolo, quindi la più ricca da questo punto di vista, tutti dicevano vabbè, è facile insomma stare meglio, andare meglio della vecchia Alitalia avendo questa bella fetta di slot rispetto alla concorrenza, però i risultati dicono poi, se uno va a vedere l'analisi di flusso, che la concorrenza in realtà sale anche non solo da Malpensa, dove la gestione Prato pubblica precedente aveva molto ridotto la cosa, ma anche da Linate. Quindi cosa sta succedendo anche su questo punto? Prego. Allora, è assolutamente vero che l'altro elemento determinante dei risultati del terzo trimestre, a fianco al ritorno dei passeggeri, che ci tengo a sottolineare era la condizione sine qua non, è l'elemento del costo. E il dottor Porro dice bene quando dice che rispetto a tutte le altre compagnie, diciamo, tradizionali, la nostra posizione di costo è assolutamente competitiva. La cifra a cui lei faceva riferimento, diciamo, su base annua è calcolata in costo per chilometro per posto offerta a 7,2 centesimi di euro, quando la media delle compagnie aeree, diciamo, tradizionali è al di sopra del 10, normalmente 11-12, e quando le compagnie low cost sono intorno al 5. Quindi è assolutamente vero che la nostra posizione di costo... Cioè ormai avete dei costi quasi da low cost, ma quasi nell'orbita del 50% in meno rispetto ad alcuni vettori tradizionali. Sì, diciamo a metà e più vicini a quelli dei low cost che non quelli del vettore tradizionale. E questo fra l'altro è un po' il paradosso della nostra situazione, nel senso che noi abbiamo fatto in dicembre ciò che molte compagnie aeree a seguito della crisi cercano di fare oggi. Cioè cercano di ristrutturare il loro sistema di costi per adattarlo alla situazione, cosa che noi paradossalmente in maniera forzata abbiamo dovuto fare, ma che ci ha equipaggiato sostanzialmente in anticipo per la crisi. Il secondo elemento che è molto importante per il costo non è tanto il suo livello in valore assoluto, ma un patrimonio, diciamo, che a cui noi diamo un valore equivalente se non superiore, che è la flessibilità del costo. Cioè uno dei motivi per cui le compagnie aeree, diciamo, tradizionali in questo momento stanno facendo fatica a stare al passo con la crisi, qual è? Che riducendo la domanda devono ridurre la capacità, ma i costi sono in gran parte fissi. Nel nostro caso invece, in particolare per tutto ciò che concerne il costo del personale, in particolare il personale navigante, una quota parte molto rilevante di quel costo è variabile, cioè legata all'intensità del numero di viaggi, quindi del numero di aeromobili, di rotte, di frequenze che operiamo. Questo ha significato che nell'adattarci alla situazione di crisi e quindi nel modificare la capacità anche durante l'anno, siamo riusciti al tempo stesso anche a modificare i costi. E quindi questa è un'agilità che si aggiunge al valore del fatto che il valore assoluto dei costi sia basso. Io però, se mi dice una cosa che poi dobbiamo andare anche sull'inata, perché io altrimenti vengo preso a schiaffi, a calcio nel sedere da tutti i miei ascoltatori che naturalmente mi stanno in questo momento aggredendo dicendo: ma come, tu eri liberista, non lo stai incalzando, non gli stai ricordando che è tutto a spese nostre, il vecchio personale buttato via e poi i limiti antitrust eccetera eccetera. Sì, io avevo detto all'inizio che questo lo diamo per scontato, tutte queste critiche io le ho dette, le ho fatte, le ho ripetute, ma oggi volevo capire meglio di che cosa è figlio questo ritorno all'utile, per vedere se possiamo, tra virgolette, fidarci di questo ritorno all'utile o no. E per questo volevo fare una domanda. Siccome tradizionalmente noi ci siamo cimentati per anni, quando c'era la privatizzazione in corso, aperta, non sembrava se poi andava meno avanti oppure no, e una cosa l'avevamo capita, ecco, anche tra i non esperti del settore, che a guadagnare di più nei vettori tradizionali sono quelli che riescono a portare più passeggeri per tratte più lunghe, perché ovviamente lì, cioè, a fronte di un costo unitario che resta per tratta unitaria, ovviamente il biglietto più alto e la percentuale di margine per la compagnia sale quanto più ci sono più passeggeri su tratte più lunghe. Concentrandoci invece sul terzo trimestre, si vede che voi avete abbassato i costi, lo abbiamo detto, avete ottenuto load factor d'equilibrio più basso rispetto alle previsioni e avete riempito gli aerei a un livello superiore rispetto a quel load factor, quindi guadagnate. Ma tutto questo avviene in realtà facendo viaggiare passeggeri su tratte mediamente più brevi di quelle del passato. Allora la domanda è: ma per continuare poi a guadagnare, cioè sui tratti lunghi, come si fa? Bisogna aspettare il potenziamento della flotta eccetera, o questo, come dice Porro, poi si risolve con l'integrazione ed è inutile, bisogna concentrarsi a fare soldi soprattutto sul breve e sul medio per il modello di questa Alitalia, Sansavini? Vorrei sfatare un mito, cioè non esiste una struttura di network di breve, corto, medio o lungo raggio che in sé per sé genera una situazione di margine positivo o negativo. Cioè in realtà non è vero che sistematicamente le rotte a distanza maggiore e quindi anche a ricavo unitario medio superiore garantiscano una redditività superiore. Prova ne è il fatto che nel passato Alitalia aveva rotte, faccio un esempio, Bangkok, sulle quali il coefficiente medio di riempimento era il 100%, ma in realtà quello che chiamiamo il break-even load factor, cioè il coefficiente di riempimento al quale quel volo sarebbe stato operato in maniera profittevole, era il 120%. Cioè su quella rotta particolare il tasso di riempimento non è di per sé sufficiente. Chiaro. Come indicatore della redditività, ma si deve accompagnare a un tasso, a un valore medio del biglietto pagato dai passeggeri che sia adeguato. Prova ne è anche il fatto oggi che molti dei network carrier soffrono in maniera particolare, e se lei paragona ad esempio la struttura di network di British Airways, che ha registrato una perdita nel terzo trimestre a fronte del nostro profitto, sì, è un network nel quale il peso dell'internazionale, del transatlantico è molto forte. Maggiore. Allora, quindi adesso appunto, io la devo un secondo interrompere, perché altrimenti, ripeto, io ho i forconi e noi dobbiamo adesso dare la voce agli ascoltatori ed è inevitabile, lo dico, perché saranno critiche, perché la gente giustamente pretende di più. Allora, Gianluca da Milano, prego Gianluca. Sì, buongiorno ai suoi ospiti. Io volevo porre questa domanda, ma in sostanza siamo ancora noi che paghiamo e sovvenzioniamo all'Italia, punto di domanda. Milano-Roma, un biglietto oggi costa 450 euro. E quindi quanto contano i profitti sulla Milano-Roma per portare a quell'utile del terzo trimestre? Perfetto, grazie Gianluca. E infatti il punto di Linate dovevamo svilupparlo. Antonio da Perugia, prego Antonio, sintetico se può, grazie. Sì, buongiorno. Io viaggio molto negli Stati Uniti, ho viaggiato per negli anni 90 con Alitalia, poi ho abbandonato, ho viaggiato con tantissime compagnie. In sintesi, il problema di Alitalia è l'approccio, secondo me, l'approccio con il cliente. Il customer service telefonico è migliorato ma è scadente, l'approccio all'aeroporto è ancora poco invitante, poco servizio, poca attenzione. Ieri per prenotare un volo ho dovuto chiamare il call center inglese, cioè dall'Italia, ho provato con l'italiano, non sono riuscito ad avere le informazioni che volevo. Poi c'è un'opzione English, speaking English, ho chiamato, ho vinto questa opzione, ho parlato con un'operatrice irlandese, la quale è stata chiarissima. Ah, però Antonio da Perugia ci segnala che c'è, cioè, il canale, l'English Channel funziona meglio. Questo non ci avevo mai pensato. Grazie Antonio per questa segnalazione, ma è chiaro il senso della chiamata. Dice c'è qualche miglioramento, ma ancora non ci siamo. Giuseppe da Milano ancora. Prego Giuseppe. Sì, buongiorno. Anch'io sono, diciamo, un cliente mille miglia, clientela business, e devo dire che la percezione del cambiamento della qualità del servizio in questi ultimi mesi io non l'ho percepita, non l'ho vista. Devo dire che per One ho avuto la spiacevole sensazione che fosse addirittura peggiore di Alitalia, quindi tutto sommato nell'acquisizione Alitalia non ha certo guadagnato. Ma Alitalia continua, e adesso parliamo delle cose più semplici che percepisce un viaggiatore in volo, continua ad avere veramente, come diceva l'ascoltatore precedente, il signore che è intervenuto prima, una scarsissima attenzione al cliente, che non è del singolo equipaggio, della singola persona. Purtroppo diciamo che la qualità media del personale che segue i passeggeri in volo non è altissima, parlano scarsissimo inglese, non parlano una parola di nessun'altra lingua, nemmeno sui voli della Latino America dove lo spagnolo è assolutamente necessario. Ecco, qui il problema evidentemente è un problema di formazione insufficiente del personale negli ultimi anni o di scarsa selezione del personale, eccetera. Ma ci vuole poco da parte di un'azienda attenta all'utenza a mettere per esempio dei nastri con, ripetendo se si va ad Atene, gli annunci in greco, o se si va a Buenos Aires o gli annunci in spagnolo, e se si va a San Paolo gli annunci in portoghese, possibilmente non viceversa, perché mi è capitato anche... certo, viceversa sarebbe un pochino singolare. Io devo fermarla Giuseppe perché abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Molto chiaro anche il suo intervento, si può e si deve fare molto di più sulla customer care, a cominciare dagli avvisi, dalle lingue, il personale, gli approcci negli aeroporti che diceva l'ascoltatore precedente. Ora le informazioni sulla circolazione stradale sentiremo poi da Roberto Corbella, che abbiamo tenuto fino a questo momento collegato al telefono, l'effetto che ha tutto questo su tour operator italiani, quindi sul turismo del nostro paese, una delle voci che dovrebbe pesare di più per l'attivo commerciale del nostro paese rispetto a quello che fa, solo un punto di PIL per poco più di 15 miliardi di euro. Eccoci tornati in studio. Lo spunto per la trasmissione di oggi è stato questo ritorno segno più nel terzo trimestre dei conti di Alitalia rispetto a un andamento che resta molto negativo del traffico aereo internazionale, rispetto al morso che le low cost soprattutto portano nel segmento basso costo in Europa, e nel suo sfondo fenomeno di aggregazione tra le tre grandi alleanze di cui abbiamo parlato, che è più o meno inevitabile, anche se questo non significa perdita del tutto di autonomia gestionale e dei brand, e quindi significa che bisogna continuare a combattere per andare meglio nel conto economico, per poi spuntare condizioni di integrazione migliori. Ecco, telefonate agli ascoltatori come sempre molto critiche, dicendo si può fare di più, si può fare di meglio, eccetera eccetera. Chiediamo a Roberto Corbella, presidente dell'associazione tour operatori italiani, che impressione hanno loro con questa nuova compagnia rispetto ai flussi di turismo nel nostro paese, che dovrebbe essere una voce che pesa di più e meglio all'attivo commerciale italiano rispetto a quello che fanno invece Spagna e Grecia. Io ricordo che se riuscissimo a fare del turismo italiano quello che per esempio pesa nell'attivo commerciale dell'Austria, l'1.4% del PIL austriaco rispetto al nostro 1.1, noi cresceremmo invece che per un apporto di 15 miliardi che ci dà il turismo all'attivo commerciale andremo a 22. Se facessimo come fa la Grecia, in cui sono 2.4 punti di PIL, passeremo da 15 miliardi di euro a 44 miliardi di euro, ed è un'altra delle maniere per crescere del nostro paese un po' trascurata. Allora Corbella, che dice di questi, come va questo rapporto con questa Alitalia? Ma comincio col dire che Alitalia e One sono state storicamente due vettori di riferimento per il nostro comparto. Questo non è più successo negli ultimi anni, complici una serie di cambiamenti, il ridimensionamento del network, delle rotte, se ne parlava prima, molte delle rotte, soprattutto lungo raggio, soprattutto rotte turistiche, vocazione turistica, sono state via via cancellate e dismesse, un ridimensionamento della flotta, quindi questo ha fatto sì che negli ultimi 2-3 anni il ruolo di Alitalia Air One per la parte turistica è stato assolutamente marginale. Ben venga questo ritorno al profitto di Alitalia e quindi l'opportunità di tornare a fare business insieme. Certo, è più facile riconquistare il singolo passeggero piuttosto che riconquistare una programmazione turistica. Perché? perché questo richiede alcuni parametri assolutamente garantiti, per esempio una pianificazione più a medio e lungo termine. Un operatore, per affidarsi a un vettore, deve essere tranquillo che ci sarà un'operazione mantenuta nel tempo, che questa operazione avrà una sua stabilità e una qualità di servizio. Questi sono i primi presupposti. Ricordiamoci anche che storicamente come operatori abbiamo usato questi vettori non solo per il trasporto linea, ma anche in buona parte, soprattutto con Air One negli ultimi anni, per la componente charter. E anche qui bisogna capire se la nuova Alitalia vorrà mantenere questo segmento e che importanza gli vorrà attribuire. Ci saranno delle macchine dedicate con una disponibilità su base annua o sarà solo una capacità residuale? Quindi sicuramente si può fare, sicuramente gli operatori hanno interesse ad avere un vettore nazionale di riferimento importante come può essere la nuova Alitalia, per potersi appoggiare, per poter fare programmazione insieme. Il mercato sta soffrendo, l'avete detto prima, per le ragioni più ampie di tipo globale. Ha detto molto bene Sansavini prima che la prima sofferenza è sul mercato business, che è quella che ha tagliato di più le sue spese, ma anche sul leisure abbiamo un'attenzione al prezzo per mantenerlo al minimo, quindi anche noi abbiamo avuto una contrazione dei prezzi, per cui il nostro calo del fatturato è pure dovuto ad un abbattimento del prezzo medio e un abbattimento della durata media del viaggio. Quindi questi sono i fattori che stanno un po' condizionando. Poi c'è il fenomeno low cost. Il fenomeno low cost nel 2008 ha pesato per l'Italia circa il 32% dei passeggeri trasportati hanno viaggiato low cost, e qui vorrei però spezzare una lancia. Spesso non si capisce o non si tiene conto che una buona parte dei costi low cost gravano sulla comunità. E spesso abbiamo una politica delle regioni, delle realtà locali a sostegno di questi vettori, che non è necessariamente con una visione di medio e lungo termine, è una visione un po' mordi e fuggi. Finanziamo questi vettori che aprono una rotta, la chiudono il giorno dopo se non hanno più finanziamenti. Questo crea spesso distorsioni sul mercato e, diciamoci francamente, anche concorrenza sleale. Non è ovviamente sempre il caso questo, ci sono anche delle rotte molto sane, ci sono anche dei vettori che operano con correttezza, ma molti approfittano di maglie larghe del nostro sistema. No, molti approfittano del fatto che aeroporti minori fanno quel tipo di offerta e quindi c'è un forte sussidio a quel tipo di rotte. Naturalmente voi dovete capire che chi ascolta e vuole pagare di meno, però preferisce pagare di meno prima che poi mi mordano a me. Anche in fondo se però finiscono a pagarlo poi come cittadini. Ma questo è come sempre quando i costi sono opachi dei sistemi di sussidio incrociato, è sempre un po' così. Allora Sansavini, un ultimo minuto, c'è una raffica adesso di osservazioni dalle quali quindi scelga lei a quale. Io ricorderei soprattutto le telefonate, perché i passeggeri sono la cosa di fondo, quindi ecco, a qualcuna di quelle osservazioni quale può essere la risposta che ci possiamo attendere dall'Italia nel prossimo periodo? Assolutamente. Il primo tema è quello del supposto monopolio su Roma Milano, e che questo sia il driver in qualche modo dei risultati positivi di Alitalia in questa fase. E su questo occorre veramente dare qualche dato quantitativo. Cioè i ricavi sulla Roma Milano rappresentano il 6% dei ricavi complessivi di Alitalia. Quindi è evidente che hanno un ruolo, ma un ruolo comunque marginale sul bilancio complessivo di Alitalia. In secondo luogo, degli slot, diciamo, che sono a Linate, Alitalia ne ha il 60%, cioè ci sono il 40% degli slot che sono nelle mani di altre compagnie aeree, che possono in tutta libertà decidere di utilizzarli sul Milano-Roma, perché gli slot non sono vincolati ad una tratta, sono semplicemente dei punti di arrivo o di partenza dell'aeromobile presso un aeroporto. Questo quindi significa che la stessa Lufthansa, compagnie aeree che volessero operare su Roma-Milano, dovrebbero naturalmente utilizzare gli slot che già hanno per sfruttare, per operare in Roma-Milano. A questo aggiungo un elemento finale, che forse è quello chiave per comprendere se in effetti esista una posizione di monopolio sul Milano-Roma o no. Se così fosse, non si comprenderebbero tutti gli investimenti che sono stati fatti dall'Italia su questa tratta, e non si comprenderebbe perché il ricavo medio anche su questa tratta è diminuito quest'anno rispetto all'anno scorso. Se le faccio un esempio pratico, se lei era un passeggero del Milano-Roma l'anno scorso, avrebbe dovuto recarsi all'aeroporto a fare il check-in. Oggi è possibile fare il check-in attraverso internet o addirittura ricevere la carta d'imbarco sul proprio telefono portatile. Si presenta quindi all'aeroporto non più all'ora del check-in, ma a ridosso dell'ora di imbarco, e a questo punto si può passare attraverso quello che chiamiamo il fast track, cioè invece di passare alle procedure di sicurezza tradizionali che comportano una coda, uno passa attraverso il fast track e arriva immediatamente al gate di partenza. A questo punto sale sull'aeromobile, altra sorpresa, abbiamo tutti aeromobili dedicati, nuovi sulla rotta Roma-Milano, per cui Airbus 320 con catering dedicato, con personale dedicato, con accesso nella maggior parte dei casi da Linate e da Roma con il Finger, e soprattutto la performance operativa in questo momento della Milano-Roma è di assoluta eccellenza, cioè una volta arrivati si arriva nel 94% dei casi in orario. Sansavini, oimè, il tempo è scaduto come sente dalla musichetta, abbiamo tentato di capire meglio cosa sta succedendo in questo ritorno all'utile con i conti dell'Italia nel terzo trimestre, grazie a Marco Sansavini, grazie a Nicola Porro, una speranza di tornare ad averlo presto con noi, grazie a Roberto Corbella, in regia a Pietro Lacorte, in redazione Alessandro Marco Tulli, la linea al Generale Radio, appuntamento a domani e abbiate pazienza, ogni tanto bisogna capire, non solo picchiare, lo dico a chi mi accusa di essere stato troppo buono oggi con Alitalia, io non faccio lo squartatore di professione, il giornalista, e serve talvolta capire i numeri per capire che cosa possono portarci a prevedere per il domani, appuntamento a domani, grazie.